Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Il convoglio dei Rostov, lasciata Mosca, si ferma per la notte a solo 20 miglia dalla città. Natasha è inquieta. Sente i lamenti di un ferito e, pur sapendo che non si tratta di Andrei, pure non riesce a fare a meno di identificare quel pianto e quei lamenti con la figura, con l'immagine del suo ex fidanzato. Aspetta dunque che Sonia e la madre si addormentino e poi si reca nella isba dei feriti. Là, intanto, Andrei è in preda alla febbre e a un semidelirio. Crede di avere una sorta di allucinazione, ma poi si rende conto di avere di fronte proprio Natasha. Questa gli chiede perdono e lui le risponde soltanto che l'ama, più e meglio di prima. Da quel momento Natasha prende ad accudire il principe come la migliore delle infermiere. Ora noi riprendiamo invece la lettura dal capitolo dedicato a Pierre. Il 3 settembre Pierre si svegliò tardi. L'orologio segnava le 11, ma fuori era molto scuro. Pierre si alzò, si stropicciò gli occhi e, vedendo la pistola con l'impugnatura intagliata che Gerasim aveva di nuovo posata sulla scrivania, Pierre si ricordò dove si trovava e che cosa lo attendeva proprio in quel giorno. Accomodandosi addosso il vestito, prese in mano la pistola e si preparava già ad andare. Ma qui, per la prima volta, gli venne in mente il pensiero del modo come avrebbe tenuto quell'arma per la strada, non certo in mano. Anche sotto al largo gabbano sarebbe stato difficile nascondere la grossa pistola. Era impossibile portarla alla cintura o sotto il braccio senza farsi scorgere. E oltre a ciò la pistola era scarica e Pierre non riusciva a caricarla. Tanto varrebbe un pugnale, si disse Pierre, sebbene più volte, meditando sul compimento del suo progetto, avesse concluso fra sé che il maggiore errore commesso dallo studente del 1809 era stato di volere uccidere Napoleone proprio con un pugnale. Ma pareva che lo scopo principale di Pierre non fosse di compiere l'atto che aveva premeditato, ma di mostrare a se stesso che egli non retrocedeva dalla sua intenzione e faceva di tutto per attuarla. Pierre prese in fretta il pugnale spuntato e intaccato col fodero verde che aveva comprato insieme con la pistola e se lo nascose sotto al panciotto. Dopo essersi stretto alla cintola il gabbano e messo il berretto, cercando di non fare rumore e di non incontrare il capitano, Pierre traversò il corridoio e uscì nella strada. L'incendio che egli aveva guardato con tanta indifferenza la sera prima, nella notte era considerevolmente aumentato. La strada che doveva percorrere Pierre conduceva, attraverso dei vicoli, alla via Povarskaya e di là all'Arbat, verso la chiesa dell'Apparizione di San Nicola, presso la quale egli aveva da lungo tempo fissato nella sua mente il posto dove avrebbe compiuto il suo atto. La maggior parte delle case avevano le porte e le imposte chiuse. Le strade e i vicoli erano deserti. Nell'aria c'era un odore di bruciato e di fumo. Presso il portone di una casa, tre francesi, che dicevano qualcosa ai dei russi che non li capivano, fermarono Pierre domandandogli se sapeva il francese. Pierre scosse il capo negativamente e passò oltre. Egli non udiva e non vedeva nulla intorno a sé. Frettoloso e atterrito, portava in sé il suo progetto come qualcosa di terribile e di estraneo, temendo di perderlo in qualche modo di vista. Ma Pierre non era destinato a portare intatto il suo stato d'animo fino al luogo dove si dirigeva. Oltre a ciò, se anche egli non fosse stato trattenuto da nulla nel suo cammino, non avrebbe potuto mettere in atto il proposito, perché Napoleone, più di 4 ore prima, era arrivato al Cremlino e ora, nello stato d'animo più cupo, sedeva nel gabinetto dello zar al palazzo del Cremlino e dava ordini minuziosi, particolareggiati, circa le misure che dovevano essere prese immediatamente per estinguere l'incendio, prevenire il saccheggio e tranquillizzare gli abitanti. Ma Pierre non lo sapeva. Tutto assorto nel suo proposito, si tormentava, come si tormentano le persone che si ostinano a intraprendere una cosa impossibile, non per le sue difficoltà, ma per la sua incompatibilità con la propria natura. Si tormentava per la paura di sentirsi debole nel momento decisivo e perdere, di conseguenza, la stima di se stesso. A misura che Pierre si avvicinava alla Povarskaya, il fumo si faceva sempre più denso e si sentiva anzi il calore proveniente dall'incendio. Di tanto in tanto salivano lingue di fuoco di sotto ai tetti delle case. Si incontrava più gente per la strada e questa gente era più agitata. Passando per un sentiero che attraversava un grande spazio senza fabbricati, Pier udì tutta un tratto, proprio vicino a sé, un pianto disperato di donna. Si fermò, come se si fosse svegliato da un sogno, e alzò la testa. Da una parte del sentiero, sull'erba secca e polverosa, erano accatastati mucchi di masserizie domestiche, materassi di piume, samovar, immagini sacre e bauli. In terra, accanto ai bauli, era seduta una donna non più giovane, magra, coi denti superiori lunghi e sporgenti, vestita di un mantello nero e di una cuffia. Questa donna piangeva perdutamente, dondolandosi e brontolando qualcosa. Due ragazzine dai 10 ai 12 anni, con dei vestitini e dei mantelletti corti e sudici, con l'espressione dello stupore sui pallidi visi spaventati, guardavano la madre. Un bambino più piccolo, di forse 7 anni, in camiciotto e con un berretto enorme, certo non suo, piangeva nelle braccia di una vecchia bambinaia. Una sudicia servetta scalza era seduta su di un baule e, disfacendosi una treccia biondastra, ne strappava i capelli bruciati e li annusava. Il marito, un omino non alto, in piccola tenuta di funzionario, un po' curvo, con delle piccole fedine a forma di ruota e delle ciocche di capelli lisci che uscivano di sotto a un berretto posto dritto sul capo, con una faccia impassibile, smuoveva i bauli messi l'uno sull'altro e ne tirava fuori certi vestiti. La donna si gettò quasi ai piedi di Pier quando lo vide. «Padri miei carnali, cristiani ortodossi, salvatemi, aiutatemi, caro, che qualcuno mi aiuti!» articolava ella in mezzo ai singhiozzi. «La mia bambina, mia figlia, la mia figlia minore hanno lasciato, è bruciata! Ma voi siete un uomo di cuore!» fece la donna rivolta a Pier, parlando in fretta e singhiozzando. «Bruciava la casa accanto a noi e il fuoco ha preso anche la nostra. La serva ha gridato «Il fuoco!» Ci siamo precipitati per radunare qualche cosa. Siamo scappati fuori, così, come ci si trovava. Ecco quel che si è preso. La benedizione di Dio e il letto nuziale. Tutto il resto è perduto. Guardo i ragazzi e Katiechka non c'è. Oh, signore! Oh, signore!» E si mise di nuovo a singhiozzare. «La mia bambina, cara, è bruciata, bruciata!» «Ma dove? Dov'è rimasta?» disse Pier. All'espressione animata del suo viso, la donna capì che quell'uomo la poteva aiutare. «Babbo, padre mio!» gridò afferrandogli i ginocchi. «Benefattore mio, calma tu il mio cuore!» «Aniska, va, canaglia, conducilo!» gridò alla servetta, aprendo rabbiosamente la bocca e con questo movimento mostrando ancora di più i suoi lunghi denti. «Conducimi, conducimi, farò io!» disse precipitosamente Pier, con voce affannosa. La sudicia servetta uscì da dietro il baule. Si tirò su la treccia e, sospirando, andò innanzi per il sentiero coi suoi piedi nudi e pigri. Pareva che Pier si fosse a un tratto risvegliato alla vita dopo un pesante svenimento. Alzò la testa, gli occhi si accesero di una luce di vita e a rapidi passi andò dietro alla servetta. La raggiunse e sbucò sulla via Povarskaya. Tutta la strada era coperta da una nuvola di fumo nero. Lingue di fiamma balzavano qua e là da quella nuvola. La gente, in gran folla, si ammassava davanti all'incendio. In mezzo alla strada stava un generale francese e diceva qualcosa a coloro che lo circondavano. Pier, accompagnato dalla servetta, si avviò verso il luogo dove stava il generale, ma dei soldati francesi lo fermarono. «On ne passe pas!» gli gridò una voce. «Di qua, zio, di qua!» gridò la servetta. «Passeremo per il vicolo!» e, dopo avere oltrepassato 3 case, entrò in un portone a destra. «Ecco, è subito qui!» disse la servetta. E attraversato di corsa il cortile, aprì un cancelletto in uno steccato di tavole sottili e, fermandosi, mostrò a Pier un piccolo padiglione di legno che bruciava, mandando un grande calore e una grande luce. Quando Pier entrò attraverso il cancelletto, il calore lo investì ed egli involontariamente si fermò. «Qual è? Qual è? Qual è la vostra casa?» domandò. «Lì, lì, proprio lì era il nostro alloggio. E sei bruciata, tesoro nostro, Katiechka, padroncina mia adorata. Oh!» Si mise a gemere Aniska alla vista dell'incendio, sentendo la necessità di esprimere anche i propri sentimenti. Pier si inoltrò verso il padiglione, ma il calore era così forte che involontariamente egli descrisse un semicerchio attorno al padiglione e si trovò davanti alla casa grande, intorno alla quale brulicava una folla di francesi. Da principio Pier non capì che cosa facessero questi francesi, che trascinavano qualcosa. ma vedendo davanti a sé un francese che batteva un contadino col piatto della sciabola e gli strappava una pelliccia di volpe, Pierre capì vagamente che lì si saccheggiava, ma non ebbe il tempo di fermarsi a quel pensiero. Lo scricchiolio e poi il fracasso delle mura e dei soffitti che crollavano, il fischiare e il crepitare delle fiamme, gli urli eccitati della gente, la vista dei nuvoli di fumo che ondeggiavano, ora oscurandosi fitti e neri, ora alzandosi in aria e schiarendosi, con lo sfavillio delle scintille e delle fiamme che lambivano le mura, qua spesse a forma di covoni e rosse, là a colore delle squame dorate, la sensazione del calore e del fumo e della rapidità dei movimenti, tutto ciò produsse su Pierre il solito effetto eccitante degli incendi. Si sentiva giovane, allegro, agile e risoluto. Girò intorno al padiglione, dal lato della casa, e voleva già correre in quella parte di esso che era ancora in piedi, quando, proprio sul suo capo, udì alcune voci che gridavano, e poi uno schianto e il rumore di un oggetto pesante che gli cadde vicino. Pierre si voltò a guardare e vide alle finestre della casa dei francesi che avevano buttato giù il cassetto di un canterano pieno di oggetti di metallo. Altri soldati francesi che stavano giù si avvicinarono al cassetto. «Eh bien? Che schilvesse lui là?» gridò a Pierre uno dei francesi. «Un enfant dans cette maison! Non avete visto un bambino?» disse Pierre. «Un enfant?» gridò di su un francese. «Où est-il? Où est-il? Dov'è?» chiedeva Pierre. «Parisi, parisi!» gli gridò il francese dalla finestra, indicandogli il giardino che era dietro alla casa. E dopo un momento, un giovanotto in maniche di camicia, con gli occhi neri e una macchia su di una gota, saltò giù dalla finestra del pianterreno e, battendo sulla spalla a Pierre, corse con lui nel giardino. Sul vialetto coperto di sabbia, il francese tirò Pierre per un braccio e gli mostrò uno spiazzo tondo. Sotto una panchina c'era una bimba di 3 anni con un vestitino rosa. Pierre, ansimando dalla gioia, corse verso la bimba e voleva prenderla fra le braccia. Ma vedendo un estraneo la bambina, scrofolosa e malaticcia, somigliante alla madre, antipatica all'aspetto, si mise a urlare e a scappare. Pierre però l'acchiappò e l'alzò fra le braccia. Lei si mise a strillare con una voce di rabbia disperata e con le sue manine tentò di allontanare da sé le mani di Pierre e di morderle con la sua bocca mocciosa. Pierre provò un senso di orrore e di disgusto simile a quello che provava al contatto di qualche bestiola. Ma fece uno sforzo su se stesso per non lasciare andare la bambina e corse indietro, verso la casa grande. Ma ormai era impossibile ripassare per la stessa strada. La servetta non c'era più e Pierre, con un senso di pietà e di disgusto insieme, stringendo a sé con la maggior gentilezza possibile la bambina che singhiozzava dolorosamente ed era tutta bagnata, si mise a correre per il giardino cercando un'altra uscita. Quando Pierre, fatto di corsa il giro per cortili e vicoli, fu ritornato col suo fardello all'angolo di via Povarskaya, nel primo momento non riconobbe il posto dal quale era partito per andare a cercare la bambina. Tanto era ingombro di gente e di masserizie tirate fuori dalle case. Oltre alle famiglie russe con le loro robe, venute per salvarsi dall'incendio, c'erano anche parecchi soldati francesi in vestiti diversi. Pierre non fece attenzione ad essi. Si affrettò a cercare la famiglia del funzionario per dare la figlia alla madre e andare di nuovo a salvare qualcuno. La bambina ora s'era chetata e, tenendosi con le manine al gabbano di Pierre, se ne stava sul suo braccio e si guardava intorno come una bestiola selvaggia. Pierre ogni tanto la guardava con un lieve sorriso. Gli pareva di vedere qualcosa di commovente e di innocente in quel visino spaventato e malaticcio. Né il funzionario né la moglie erano più nel posto di prima. Pierre, a rapidi passi, camminava fra la gente, guardando i visi che gli capitavano davanti. Involontariamente notò una famiglia georgiana o armena, composta di un uomo molto vecchio, bello, con un viso di tipo orientale, vestito con un pellicciotto nuovo foderato di montone e degli stivali nuovi, di una vecchia dello stesso tipo e di una giovane donna. Questa donna, molto giovane, parve a Pierre la perfezione della bellezza orientale, con le sue sopracciglia nere, arcuate, e il viso lungo, insolitamente dolce, colorito e bello, ma senza nessuna espressione. Era seduta su dei fagotti, un po' dietro alla vecchia, e coi suoi 2 grandi immobili occhi neri allungati dalle lunghe ciglia, guardava in terra. Di certo era conscia della sua bellezza e temeva per essa. Quel viso colpì Pierre, ed egli, passando in fretta lungo la stecconata, più volte si voltò per guardarla. Giunto alla fine della stecconata e non trovando quelli che cercava, Pierre si fermò e si guardò intorno. «Avete perduto qualcuno, buon uomo? «Siete un nobile? Di chi è la bambina?» gli domandavano. Pierre rispondeva che la bambina apparteneva alla donna col mantello nero che stava poco prima coi figli in quel luogo e domandava se qualcheduno sapeva chi fosse e dove fosse andata. «Devono essere gli Anferov», disse un vecchio diacono rivolgendosi a una donnetta butterata. «Ma che Anferov?» disse la donnetta. «Se ne sono andati fin da stamattina. Deve essere Maria Nikolaevna, oppure gli Ivanov». «Ha detto una donna, e Maria Nikolaevna è una signora», disse un domestico. «Ma voi dovete conoscerla, coi denti lunghi, magra», disse Pierre. «È Maria Nikolaevna. Sono scappati in giardino quando sono piombati qui questi lupi», disse la donnetta, mostrando i soldati francesi. «Andate per di qua, sono laggiù. Sì, sì, è lei di certo. Era tutta avvilita, piangeva», disse di nuovo la donnetta. È lei, per di qua, per di qua». Ma Pierre non ascoltava la donna. Già da qualche momento guardava, senza levare gli occhi, ciò che si faceva a pochi passi da lui. Guardava la famiglia armena e due soldati francesi che si erano avvicinati agli armeni. Uno di questi soldati, un piccoletto, dai gesti vivaci, era vestito con un cappotto turchino, legato alla vita da una corda. Sulla testa aveva un colbacco e i suoi piedi erano scalzi. L'altro, che più specialmente aveva colpito Pierre, era un uomo lungo, un po' curvo, biondo, magro, dai movimenti lenti e dall'espressione del viso idiota. Questo era vestito con un cappotto di rovescio, dei calzoni turchini e degli stivaloni alla scudiera, sdruciti. Il piccolo francese senza stivali, in cappotto turchino, s'era avvicinato agli armeni e subito, dicendo qualcosa, aveva afferrato le gambe del vecchio e il vecchio, lesto lesto, si levava gli stivali. L'altro, col cappotto di rovescio, s'era fermato davanti alla bella armena e in silenzio, immobile, con le mani in tasca, la guardava. «Prendi, prendi la bambina», disse Pierre, rivolgendosi in fretta e con autorità alla donnetta e dandole la piccina. «Consegnala a loro, consegnala», urlò quasi alla donna, posando a terra la bambina che si era messa a strillare, e si volse di nuovo verso i francesi e la famiglia armena. Il vecchio, già scalzo, singhiozzando, diceva qualche cosa, ma Pierre lo vedeva soltanto con la coda dell'occhio. Tutta la sua attenzione era rivolta al francese in cappotto di rovescio, che intanto, dondolandosi lentamente, s'era accostato alla giovane donna e, togliendo le mani di tasca, l'aveva presa per il collo. La bella armena se ne stava sempre seduta in quella medesima posizione, con le lunghe ciglia abbassate, come se non sentisse ciò che le faceva il soldato. Mentre Pierre faceva di corsa quei pochi passi che lo separavano dai francesi, già il predone alto col cappotto di rovescio aveva strappato dal collo dell'armena la collana. E la giovane donna, portandosi le mani alla gola, gridava con voce rauca. «Laissez cette femme!» urlò con voce furibonda Pierre, prendendo per le spalle il soldato lungo e curvo e dandogli uno spintone. Il soldato cadde, si alzò e scappò via. Ma il suo compagno, gettando via gli stivali, tirò fuori la sciabola e andò addosso minaccioso a Pierre. Pierre si trovava in uno di quei parossismi di rabbia nei quali non pensava più a nulla e che decuplicavano le sue forze. Egli si gettò sul francese scalzo e prima che questo avesse avuto il tempo di alzare la sciabola già lo aveva fatto cadere e lo tempestava di pugni. Si udirono gli urli di approvazione della folla circostante e nello stesso momento dall'angolo della via comparve una pattuglia di ulani francesi a cavallo. Gli ulani al trotto si lanciarono verso Pierre e il francese e li circondarono. Pierre non si ricordò mai ciò che avvenne dopo. Sapeva soltanto che ne aveva date e prese e che alla fine s'era sentite le mani legate, che una folla di soldati francesi gli stava intorno e che gli frugavano addosso. Un ufficiale si rivolse a Pierre. «Parlez-vous français, vous?» Pierre si guardava intorno con gli occhi iniettati di sangue e non rispondeva. La sua fisonomia dovette parere molto terribile, perché l'ufficiale disse qualche cosa a bassa voce e quattro ulani si staccarono dalla pattuglia e si misero ai due lati di Pierre. «Parlez-vous français?» ripeté la domanda l'ufficiale, tenendosi discosto da lui. «Fate venire l'interprete». Di dietro alle file degli ulani venne fuori un ometto vestito in civile alla russa. Pierre, dal modo di vestire e di parlare, lo riconobbe subito per un francese che stava in un negozio di Mosca. «Il n'a pas l'air de nome du peuple», disse l'interprete, guardando Pierre. «Oh, oh, mi ha piuttosto l'aria di uno degli incendiari», disse l'ufficiale. «Domandategli chi è», aggiunse, sempre in francese. «Tu chi sei?» domandò l'interprete parlando malamente in russo. «Dovrai rispondere all'autorità», disse. «Non vi dirò chi sono». «Je suis votre prisonnier. Portatemi via», disse a un tratto Pierre. «Ah, ah», proferì l'ufficiale, aggrottando le sopracciglia. «Marchons!» La pattuglia dei francesi era una di quelle mandate nelle diverse strade di Mosca per mettere fine ai saccheggi e specialmente per arrestare gli incendiari. Dopo aver percorso diverse strade, la pattuglia arrestò ancora 5 russi sospetti: un bottegaio, 2 seminaristi, un contadino, un domestico e alcuni dei saccheggiatori. Ma fra tutti i sospetti, il più sospetto appariva Pierre. Quando tutti furono condotti a passare la notte in una grande casa sul bastione Zubovsky, dove avevano stabilito una guardina, Pierre fu messo da solo, sotto stretta sorveglianza. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it. Thank you.